763 gelato di aranci. Aranci grossi numero 4, limoni di giardino numero 1, acqua decilitri 6, zucchero grammi 300. Strizzate gli aranci e il limone e passatene il sugo. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti. Versatelo nel sugo. Passate il composto dall'ostaccio un'altra volta e ponetelo nella sorbettiera. Servitelo in bicchierini a calice con la colmatura o tutte in un pezzo. Questa dose basterà per 8 persone.